tra tanti che sono nati, visse tra i tanti uomini vissuti. Ciò non ha storia, ma terra, terra centrale del Cile, dove le vigne incresparono la loro chioma verde, l'uva si alimenta della luce e il vino nasce dai piedi del popolo. Il poeta che non è realista è morto, ma il poeta che è solo realista è morto anche lui. Parral si chiama il luogo di colui che nacque d'inverno. Ormai non esiste più la casa né la strada. La cordigliera sciolse i suoi cavalli, saltarono le montagne e il villaggio cadde, travolto dal terremoto. Così muri di fango, ritratti alle pareti, mobili sconnessi in sale oscure, silenzio interrotto dalle mosche. Tutto tornò a essere polvere. Il poeta prima venne a patti con le tenebre e ora deve interpretare la luce. Io non ricordo paesaggio, né tempo, volti né figure, ma solo polvere impalpabile, la coda dell'estate e il cimitero dove mi portarono per vedere tra le tombe il sonno di mia madre. E poiché mai avevo visto il suo volto, la chiamai tra i morti per vederla. Ma come gli altri sepolti, non sa, non ode, non rispose nulla. E lì rimase, sola, senza il figlio, scontrosa ed evasiva, tra le ombre. Chi fui? Che cosa fui? Che fummo? Non v'è risposta. Passammo. Non fummo, eravamo. Altri piedi, altre mani, altri occhi. Il poeta che è solo irrazionale verrà capito soltanto da se stesso e dalla sua amata. E questo è abbastanza triste. Il poeta che è solo un razionalista verrà capito perfino dagli asini. Ma anche questo è sommamente triste. Appena seppi solamente che esistevo e che avrei potuto essere, continuare, ebbi paura di ciò, della vita. Desiderai che non mi vedessero, che non si conoscesse la mia esistenza. Divenni magro, pallido, assente. Camminando mi strinsi contro il muro come un'ombra che scivoli via. Mi sarei vestito di tegole rosse, di fumo, per restar lì, ma invisibile, essere presente in tutto ma lungi, per conservare la mia identità oscura, legata al ritmo della primavera. Per equazioni del genere non ci sono cifre alla lavagna, non ci sono ingredienti decretati da Dio o dal diavolo, se non che questi due importantissimi personaggi tengono viva una lotta nella poesia. E in questa battaglia vince ora l'uno, ora l'altro. Ma la poesia non può essere sconfitta. La porta del crepuscolo, d'estate, gli ultimi carretti degli Indios, una luce indecisa. Il fumo della selva bruciata! Io ho rotto, con calzoni corti, magre gambe, ginocchi, occhi che cercano improvvisi tesori. Rosita, Josefina, dall'altra parte della strada mi chiusero gli occhi e corsero con me, con la mia innocenza, alla panetteria. Silenzio di grandi tavole. Grave casa del pane, disabitata. Volevo svestirmi, fuggii tremando, e non potevo correre. Allora le due incantatrici produssero davanti ai miei occhi un miracolo. Un minuscolo nido d'uccello selvatico, con cinque piccole uova. Allungai una mano, mentre brigavano coi miei vestiti, mi toccavano, passi pesanti, tosse. Mio padre che arrivava con estranei. Corremmo al fondo dell'ombra, le due filate e io, prigioniero, ammontolati fra le ragnatele, stretti sotto una tavola, tremando, mentre il miracolo, il nido degli ovetti celesti, cadde e i piedi degli intrusi demolirono fragranza e strutture. Ma con le due bimbe, nell'ombra e nella paura, tra l'odore della farina, i passi spettrali, la sera che si trasformava in ombra, sentii che qualcosa cambiava nel mio sangue. che saliva dalla bocca. Alle mie mani un elettrico fiore. Il fiore affamato e puro del desiderio. Tutto andò cambiando, foglia a foglia, nell'albero. E in te la tua pelle cambiò, i capelli, la memoria. Quello non fosti, quello fu un bimbo che passò correndo dietro un fiume, una bicicletta e col movimento. Se ne andò la tua vita in quel minuto. La falsa identità seguì i tuoi passi. Giorno per giorno le ore si ancorarono, ma più non fosti, venne l'altro. L'altro tu e l'altro finché fosti. Finché ti togliesti dal passeggero stesso, dal treno, dai vagoni della vita, dalla sostituzione, dal viandante. Non so quando arrivammo a Temuco. L'arseno polveroso della mia patria mi condussero senza parola fino alla pioggia della Araucania. I legni della casa odoravano di bosco, di selva pura. Da allora il mio amore fu legnaiolo, e ciò che tocco si converte in bosco. Mi si confondono gli occhi con le foglie, certe donne con la primavera del nocciolo, l'uomo con l'albero. Non sapevo che esistesse il mondo. Il mondo era pieno di donne, zeppo come una vetrina. E dalle chiome che appresi all'improvviso, da tanto seno puro e splendidi fianchi, seppi che Venere non aveva spuma. Era secca e ferma, con due braccia eterne, e resisteva con la sua dura madreperla la genitale azione della mia impudicizia. Corpo a corpo, senza parole, e la farina bagnata che allaccia la frenesia dei palpiti, amori d'una volta, rapidi, assetati, chiave a chiave, e l'orgoglio d'essere condivisi. Penso che la mia poesia si fondò non solo in solitudine, ma in un corpo e altro corpo, a piena pelle di luna e con tutti i baci della terra. Da Silvestre giunsi alla città, a gas, a volti crudeli che misurarono la mia luce e la mia statura, a donne che in me si cercarono come se a me si fossero perdute. Così andò succedendo all'uomo impuro, figlio del figlio puro, fino a che nulla fu come era stato. Ed improvviso apparve sul mio volto un volto di straniero. E ugualmente ero io. Ero io che crescevo. Eri tu che crescevi, era tutto. E cambiammo. E mai più sapemmo chi eravamo. E a volte ricordiamo colui che visse con noi. Gli chiediamo qualcosa, forse che ci ricordi. Che sappia almeno che fummo lui e che parlammo con la sua lingua. Ma dalle ore consunte, quello ci guarda. E non ci riconosce. C'erano sogni e vita a trattenermi. Bimbo magro, uccello, solitario scolaro, pesce cupo. Andavo solo sulla prua, inumano, sperduto, ancora senza ragione né canto né gioia, preso dal movimento delle acque che tra i monti andavano isolando per me solo quelle solitudini, per me solo quel cammino puro, per me solo l'universo. E prezze di fiumi, rive di foreste di fragranza, pietra improvvisa, alberi bruciati e terra piena e sola. Figlio di quei fiumi mi mantenni, correndo per la terra, per le stesse rive, verso la stessa schiuma. E quando il mar d'allora si abbatté, come torre ferita, si sollevò increspato dalla sua furia, uscì dalle radici. Mi si ingrandì la patria, si ruppe l'unità del legno, la prigione dei boschi aprì una porta verde, da cui l'onda entrò con il suo tuono, e la mia vita si distese, con un colpo di mare, nello spazio. La vita è più forte e più testarda dei precetti. La rivoluzione è la vita. E i precetti cercano la propria bara. Fu a quell'età. Venne la poesia a cercarmi. Non so da dove uscì, dall'inverno o dal fiume. Scrissi la prima linea, vaga, senza corpo, pura sciocchezza, pura sapienza di chi non sa nulla. E vide d'improvviso il cielo sgranato e aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, l'ombra perforata, crivellata da frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo. La poesia è sempre un atto di pace. Il poeta nasce dalla pace come il pane nasce dalla farina. Gli incendiari, i guerrieri, i lupi cercano il poeta per bruciarlo, per ucciderlo, per sbranarlo. Uno spadaccino lasciò Puskin ferito a morte fra gli alberi di un parco desolato. Byron morì in Grecia lottando contro la guerra. I fascisti spagnoli iniziarono la guerra in Spagna assassinando il suo maggior poeta. I libri tessero, scavarono, scivolarono la loro serpentina e poco a poco, dietro le cose, gli affanni, sorse come un dolore amaro. Con la chiarità del sole, l'albero della conoscenza. D'improvviso toccai tutta l'ingiustizia. La fame non era solo fame, ma la misura dell'uomo. Il freddo, il vento, erano anch'essi misure. Misurò 100 fami e cadde l'eretto. Ai 100 freddi fu sotterrato Pedro. Un solo vento durò la povera casa. E appresi che il centimetro e il grammo, il cucchiaio e la lega, misuravano la cupidigia. E che l'uomo assediato d'improvviso cadeva in un buco e più nulla ormai sapeva, più nulla, e quello era il luogo, il granusso, il dono, la luce, la vita, quello era patir di freddo e fame, non aver scarpe e tremare davanti al giudice, davanti a un altro essere con spada e calamaio, e così a spintoni, scavando e tagliando, cucendo, facendo il pane, seminando frumento, dando a ogni chiodo che chiedeva legno, cacciandosi nella terra come in un intestino per estrarre alla cieca il carbone crepitante, ancor più salendo fiumi e scogliere, montando cavalli, muovendo imbarcazioni, cuocendo tegole, soffiando vetri, lavando biancheria in modo tale che tutto ciò sembrava il regno appena innalzato, uva splendente del grappolo, quando l'uomo si decise a essere felice. Non era così. Andai scoprendo la legge della sventura, il trono d'oro insanguinato, la libertà celestina, la patria senza riparo, il cuore ferito e stanco, e un rumore di morti, senza lacrime, secchi, come pietre che cadono. Allora cessai d'essere fanciullo, perché compresi che al mio popolo non permisero la vita e negarono la sepoltura. Ma perché? Io allora ero sottile come un filo e più oscuro d'un pesce d'acque notturne, e non potei più. Volli d'un tratto cambiare la terra. Mi parve di mordere all'improvviso l'erba più amara, di condividere un silenzio macchiato dal delitto. Ma nella solitudine nascono e muoiono le cose. La ragione cresce e cresce fino a essere delirio. Il petalo si distende senza arrivare alla rosa. La solitudine è la polvere inutile del mondo, la ruota che gira senza terra, né acqua, né uomo. E così fu come io gridai perduto. Che ne fu di quel grido incontenibile nell'infanzia? Chi lo dì? Qual bocca rispose? Che strada intrapresi? Risposero i muri quando li colpì la mia testa. Sale e ritorna, la voce del debole solitario. Gira e gira la ruota atroce della sventura. Salì e tornò quel grido, e nessuno lo seppe. Non lo seppero neppure gli abbandonati. Morti ai sotterranei, decretai. Fino a quando ingannarsi con la faccia chiusa e gli occhi volti a non vedere, a dormire. Non c'è bisogno d'altro che di essere. Essere è alla luce. Essere è essere visti e vedere. Essere è toccare e scoprire. Abbasso tutti quelli che non hanno fiore. A nulla servono le radici sole. Non bisogna vivere rodendo la pietra sottomarina o il cristallo sommerso della notte. Bisogna crescere e alzar bandiera e far fuoco sull'isola. E che risponda il navigante addormentato. Che si svegli e risponda all'improvviso fuoco che sorse lì sulla costa, fino a ora oscura. Solo la morte è rimasta silenziosa. La luce, la morte, l'acqua, il sole, il tuono, le cose che fuggono, gli insetti che ardono e muoiono, consumati nelle loro piccole vite d'oro, la torrida estate con la sua cesta di innumerevoli frutti rossi, il tempo con la sua chioma, tutto è alimento che cade nell'antica, nella verde bocca della selva divoratrice. Allora compresi che ero nudo e che dovevo vestirmi. Mai avevo guardato le scarpe. Non parlavo le lingue, non sapevo leggere, ma solo leggermi. Non sapevo vivere senza nascondermi. E compresi che non potevo più chiamarmi, che non sarei accorso. L'appuntamento era finito, mai più, diceva il corvo. Dovevo vedermela con tante nubi, con tutti i cappelli del mondo, con tanti fiumi, anticamere, porte, con tanti cognomi, che a impararli avrei passato tutta la mia triste vita. Le scale partono dal basso e dall'alto e si contorcono arrampicandosi, si assottigliano come capelli, fanno una breve sosta, tornano verticali, girano su se stesse, precipitano, si allungano e retrocedono, non finiscono mai. Santiago è una città prigioniera, assediata dalle sue mura di neve. Valparaíso, invece, apre le sue porte all'infinito mare. Quante scale! Quanti gradini di scale! Quanti piedi sui gradini! Quanti secoli di passi! Discendere e salire con il libro! Con i pomodori, con i pesci, con le bottiglie, con il pane. Quante migliaia di ore che hanno consumato gradini fino a scavarne canali per cui corre la pioggia giocando e piangendo. Scale! Nessuna città ne sparse tante. Ne spogliò nella sua storia, sul suo volto. Le scagliò e le innì come Valparaíso. Non c'è volto di città che abbia avuto di queste rughe per cui vanno e vengono le vite, come se stessero sempre salendo al cielo, come se stessero sempre discendendo al creato. Scale che a mezza strada diedero vita a un agave dei fiori purpurei. Scale per cui salì un marinaio che tornava dall'Asia e che a casa sua trovò un nuovo sorriso o una terribile assenza. Scale su cui precipitò come una nera meteora l'ubriaco che cadeva. Scale su cui sale il sole per offrire amore alle colline. Se camminassimo per tutte le strade di Valparaíso avremmo fatto il giro del mondo. In una stretta via di Valparaíso vissi per alcune settimane davanti alla casa di Don Zoilo Escobar. I nostri balconi quasi si toccavano. Il mio vicino usciva di buon'ora sul balcone e praticava una ginnastica da anacoreta che rivelava l'arpa delle sue costole, vestito sempre di una povera casacca. Ogni giorno spazzolava il suo abito di gala con meticolosa perfezione. Ma il suo tesoro più acuto e straziante era un violino Stradivari, che custodì gelosamente per tutta la vita senza suonare, senza permettere a nessuno di suonarlo. Non so, lo voleva venderlo a New York. Un giorno sarebbe partito verso il nord e sarebbe tornato senza violino, ma carico di fastosi anelli e coi denti d'oro che avrebbero sostituito nella sua bocca i buchi che vi aveva lasciato il prolungato scorrere degli anni. Una mattina non uscì sul balcone a fare ginnastica. Lo sotterrarono con l'abito di panno nero che ricoprì per la prima volta il suo scheletro minuto di eremita. Le corde del violino non poterono piangere la sua partenza, nessuno sapeva suonarlo. E quando venne aperto l'armadio, il violino non comparve. Forse era volato verso il mare, o verso New York, per realizzare i sogni di Don Zoilo. Beccio tocca il violino e l'orchestra, cara dei cicli si maestra, di l'orchestra non sirve, lo tiene, ma che un solo violino che le due. E morire spargendosi sulla sabbia. Oh verande che nascondete l'aroma di madreselva in chiosco, il cortile di papaveri. Quelli bianchi sfogliavano la bianchezza o innalzavano le mani dell'inverno. Quelli rossi stampavano sangue improvviso e bocche straziate. Quelli neri innalzavano le loro serpi di seta ed erompevano in pelle notturna gli insegni africani. Come uno stagno è l'amore. Tra numero e numero di strada lì cademmo. Ci prese l'amore profondo, il corpo s'appiccica al corpo, i capelli ai capelli, la bocca al bacio. E nel parossismo l'onda affamata si sazia e si raccolgono le lamine del fango. Studentesco amore con mese d'ottobre, con ciliegi che ardono in povere strade, tram che scampanellano alle cantonate. Andiamo guardando il rio Mapocho, per esso corre la mia vita. Rosaura al mio braccio, se ne va la sua vita nell'acqua. Corre la città lungo il fiume, la luce lungo la corrente. Entrò il treno fragoroso in Santiago del Cile, la capitale. E persi ormai gli alberi. Calavano le valigie volti pallidi e vidi per la prima volta le mani del cinismo. Entrai nella moltitudine che guadagnava o perdeva. Mi coricai in un letto che non appresi ad attendermi. Stanco dormii come la legna. E quando mi svegliai sentii un odore di pioggia. Qualcosa mi separava dal mio sangue. E uscendo spaventato per le strade, seppi, poiché sanguinavo, che mi avevano tagliato le radici. Ma da un mare all'altro sta la vita. Il vento limpido corre, le aquile tornano dall'altura, ed è così immobile la natura che solo in me trascorre il tempo trasparente tra onda e onda. Io crebbi stimolato da razze silenziose, da faci penetranti di fulgore di legni, da segrete fragranze in terra, mammelle e vino. Così il mio corpo andò estendendosi, le mie braccia di notte erano neve, i piedi il territorio tempestoso, e crebbi come un fiume all'acquazzone. Fui fertile con tutto ciò che cadeva in me, germinazioni, canti, tra foglia e foglia, scarabei che procreavano, nuove radici che ascesero alla rugiada. Che anni lontani. Scrivo da Isla Negra, sulla costa, vicino a Valparaíso. È il fragore del mare. Vedo la folla accalcarsi per strada di sera. Vicino al fiume sacro si innalza il tempio di Kali, la dea della morte. I pellegrini cadono in ginocchio e toccano il pavimento con la fronte. I sacerdoti decapitano capretti, riscuotono nuovi tributi. I poeti che mi si fecero intorno, vestiti delle loro tuniche bianche, accoccolati per terra per recitarmi i loro versi. Ognuno di quei poeti mandava un grido roco, spezzato. Non erano più canzoni di sensualità, di gioia, ma canzoni di protesta, canzoni contro la fame, canzoni scritte in prigione, perché pretendevano di sollevarsi contro la miseria e contro gli dèi. Il buon inglese sapeva quel che faceva. Da Ginevra tuonava contro i mercanti clandestini e nelle colonie ogni porto mandava un tanfo di fumo autorizzato. Ogni stoia aveva il suo giacente. Non parlava nessuno, nessuno rideva. Poveri caduti, peone, scolli sdiriscio di piantagione, miseri trottatori, cani di strada, poveri maltrattati. Ognuno aveva comprato con la fame un oscuro diritto alla delizia. E sotto la corolla del letargo, sogno o menzogna, felicità o morte, erano, finalmente, nel riposo che cerca ogni vita, rispettati. Al fine, in una stella. A Rangoon compresi che gli dèi erano nemici come Dio del povero essere umano. Dei d'alabastro, distesi come balene bianche, dei dorati come le spighe, dei serpenti attorcigliati al delitto di nascere. Forse io protestarono, forse dissero: ho paura, me ne vado, ce ne andiamo, io non sono di qui, io non nacqui condannato all'ostracismo, chiedo perdono ai presenti, torno a cercare le penne del mio vestito, mi lasciano tornare alla mia gioia, all'ombra selvaggia, ai cavalli, al nero odore d'inverno dei boschi. Gridai, gridammo, e malgrado tutto le porte non si aprirono e restammo indecisi, senza vivere né morire, annichiliti dalla perversità e dal potere. A Rangoon era tardi per me, tutto era stato già fatto. Una città di sangue, sogno e oro. Il fiume che scendeva dalla selva selvaggia alla calda città, le strade lebbrose, dove un hotel bianco per bianchi e una pagoda d'oro per gente dorata era quanto accadeva e non accadeva. Rangoon, gradini feriti dagli sputacchi del Betel, le fanciulle birmane stringendo al nudo la seta, come se il fuoco accompagnasse con lingue d'amaranto la danza, la suprema danza, il ballo dei piedi verso il mercato, il balletto delle gambe per le strade, suprema luce che aprì sui miei capelli un globo zenitale, entrò nei miei occhi, mi percorse nelle vene fino agli ultimi angoli del corpo e mi concesse la sovranità di un amore smisurato e desegnato. Fu così. La trovai vicino alle navi di ferro, presso le acque sudice del Mar Taban. Mi sedetti al suo fianco, senza guardarla, perché ero solo e non cercavo fiume né crepuscolo, non cercavo ventagli né danaro né luna, ma donna. Volevo donna per le mie mani, per il mio petto, donna per il mio amore, per il mio letto, donna argentata, nera, puttana o pura, carnivora, celeste, arancione. La volevo per amarla e non amarla. La volevo come piatto e cucchiaio. La volevo da vicino, così da vicino da poterle mordere i denti coi miei baci. La volevo fragrante solo di donna, la desideravo, con oblio ardente. Lei forse voleva o non voleva ciò che io volevo. Ma lì a Mar Taban, presso l'acqua di ferro, quando giunse la notte che riesce dal fiume come una rete colma di pesci immensi, io e lei camminammo uniti a immergerci nel piacere amaro dei disperati. E già si sa che non si poteva, che in quella rete non solo il filo conta, ma l'aria che sfugge dalle reti, e tutto il resto era inafferrabile. Tutti pensarono che avendo denti, avendo piedi e mani e alfabeto, la vita non fosse che questione d'onore. E la vita gli servì solo per morire. Il tempo per non averlo. La terra alla fine per sotterrarlo. Alla fine di questa epoca, come se tutto questo lungo viaggio fosse stato inutile, torno a rimanere solo nei territori appena scoperti. Guardo verso tutti i punti della luce e dell'ombra e non trovo che lo stesso vuoto che le mie mani hanno creato con cura fatale. Sfogliava il suo splendore morto, il suo fogliame di teste decapitate. Goccioli di sangue cadono dai cornicioni. Non è la pioggia, non servono gli ombrelli. Il tempo moriva e nessuno si trovò. Quando ormai d'altronde i regnanti avevano decretato la legge letale della fame e bisognava morire. Tutti dovevano morire, era un dovere, un impegno, così era scritto. Allora trovavamo nella rosa fisica il fuoco palpitante e godemmo di noi fino al dolore. Ferendoci, vivevamo. Qui si confrontò la vita con la sua essenza compatta. L'uomo, la donna e l'invenzione del fuoco. Sfuggimmo alla maledizione che pesava sul vuoto, sulla città. Amore contro sterminio. E la verità rubata di nuovo rifioriva. Mentre sulla gran croce inchiodavano l'amore e lo proibivano. Nessuno io, nessuno tu, nessuno noi. Ci difendemmo bracia a bracia, bacio a bacio. Ai primi proiettili che attraversarono le chitarre di Spagna, quando invece di suoni ne uscirono fiotti di sangue, la mia poesia si arresta come un fantasma nelle strade dell'angoscia umana. E su di lei comincia a salire una corrente di radici e di sangue. Da allora la mia strada si unisce con la strada di tutti e vedo che dal sud della solitudine sono andato verso il nord, che è il popolo al quale la mia umile poesia vorrebbe servire da spada e da fazzoletto per asciugare il sudore dei suoi grandi dolori e per offrirgli un'arma nelle lotte per il pane. Quella guerra, il tempo, un anno, un altro e un altro, lascia cadere come fosse terra da sotterrare ciò che non vuol morire. Garofani, acqua, cielo, la Spagna alla cui porta bussai perché aprissero allora laggiù. E una rete cristallina m'accolse nell'estate, dandomi ombra e chiarità, freschezza, l'antica luce che corre sgranata nel canto. L'antico canto fresco che sollecita nuova bocca per cantarlo. Lì giunsi per compiere il mio canto. Federico García Lorca ebbe un presentimento della sua morte. Una grande cancellata di ferro arrugginito, statue e colonne spezzate cadute tra le foglie morte. Si fermò sulla porta di una vecchia proprietà. Era la porta d'accesso a un vasto parco di una tenuta feudale. L'abbandono, l'ora, il freddo rendevano la solitudine più penetrante. Federico si sentì improvvisamente prostrato per quello che avrebbe potuto succedere in un'alba come quella. Si sedette su un capitello caduto. Un agnellino incominciò a brucare l'erba fra le rovine e quella apparizione fu come un piccolo angelo di nebbia, come un petalo di tenerezza nella solitudine di quel luogo. Il poeta si sentì in compagnia. A un tratto un branco di maiali entrò nel recinto. Erano 4 o 5 bestie scure, maiali neri semiselvaggi, con fame feroce e zoccoli di pietra. Si gettarono sull'agnello e con orrore del poeta lo fecero a pezzi e lo divorarono. Lo fecero a pezzi e lo divorarono. Che fare? Che fare? Che fare? Rispondetemi, silenziosi! Ebri di quel silenzio, sognatore di quella falsa pace e falso sogno! Che fare con sola collera negli occhi? Con soli pugni, poesia, uccelli, ragione, dolore? Che fare con le colombe? Che fare con la durezza e con l'ira se dinanzi a te si sgrana il grappolo del mondo? E la morte ormai occupa la tavola, il letto, la piazza, il teatro, la casa vicina. E blindata s'avvicina dal basede e da Soria, per costa e altopiano, per città e fiume. Strada per strada e giunge. E non va che la pelle per lottare. Altro non vecchie bandiere e pugni e il triste onore insanguinato con i piedi rotti. Fra polvere e pietra per la dura strada catalana sotto le ultime pallottole. Camminando, fratelli vanagosi, verso l'esilio. Già cantato e contato ciò che a piene mani mi diede la Spagna e ciò che mi rubò con agonia, senza lasciare nel buco altro che pianto, pianto di sangue sopra la memoria. Perché lì Federico e Miguel furono legati alla croce della Spagna. Gli inchiodarono gli occhi e la lingua. Li dissanguarono e bruciarono vivi. Li bestemmiarono e li insultarono. Li fecero rotolare nei burroni annichiliti. Perché sì, perché no, perché fu così. Così furono crocifissi fin nel ricordo. Con la morte spagnola, con le mosche ronzanti, le sottane, risate e sputo tra le lance, minimi scheletri d'usignolo, per l'ossario nefasto, gocce di miele insanguinato perduto tra i morti. Attesto, io fui lì, io vi fui e soffrì e sostengo la testimonianza, anche se nessuno vi sarà che ricordi, io sono colui che ricorda. Anche se non rimarranno occhi sulla terra, io continuerò a guardare e qui resterà scritto quel sangue, quell'amore qui continuerà ad ardere. Non vero plio, signori e signore, e attraverso la mia bocca ferita, quelle bocche continueranno a cantare. Madrid mi piaceva e ormai più non posso vederla, più. Mai più. Amare la certezza disperata, come se anch'io fossi morto mentre i miei morivano, come se la metà dell'anima fosse caduta nella tomba e lì giacesse fra pianure secche, prigioni e galere. Il tempo di prima, di quando il fiore non aveva ancora sangue, coaguli la luna. Ho conosciuto Raffaele Alberti nelle strade di Madrid, con camicia azzurra e cravatta rossa. La Spagna è secca e pietrosa, il sole la colpisce verticale, facendo scaturire scintille dalla pianura. Gli unici veri fiumi di Spagna sono i suoi poeti. Raffaele Alberti è come un sopravvissuto. C'erano 1000 morti pronti per lui. Cercavano per pugnalarlo, per impiccarlo, per uccidere in lui ancora una volta la poesia. Alberti ha inventato la guerriglia poetica, la guerra poetica contro la guerra. questo poeta di purissima stirpe, ha insegnato l'utilità pubblica della poesia, che si basa sulla forza, sulla tenerezza, sull'allegria e su un'essenziale autenticità. Senza questa qualità la poesia suona, ma non canta. Alberti canta sempre. Tres hojitas madre tiene el árbol, la una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Inésita, Inés. Avales el aire, mene, avance, avales el aire, pare, avance, pare, avance, pare, avance. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Inésita, Inés. Debajo del puente retumba el agua, retumba el agua, retumba el agua. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Inésita, Inés. Sa di chiamarsi fiume. Non è che un vago filo nato dalla neve, fra le circostanze di roccia verde ed altopiano. Non è che un povero lampo perduto che inizia a tagliare col suo scintillio la pietra del pianeta. Ma qui, così sottile e oscuro, è come se non potesse sopravvivere cadendo, cercando nella durezza il suo destino, che gira in vetta, trafigge il costato minerale del monte come pungiglione e volano le sue api verso la libertà della prateria. Le piante della pietra volgono contro di lui i loro spilli. La terra ostile lo torce, gli dà forma di freccia o di ferro di cavallo, lo riduce fino a farlo invisibile, ma resiste e continua, minuscolo, attraversando la soglia ferrigna della notte vulcanica, trapanando, rodendo, sorgendo, intatto e duro come spada, convertito in stella contro il quarzo. Fiume alla fine, costante e abbondante. Nella mia patria arrivai con altri occhi che la guerra aveva posto sotto i miei, altri occhi bruciati nella fiamma, cosparsi del pianto mio e del sangue degli altri. Io dissi: ieri il sangue, venite a vedere il sangue della guerra. Ma lì era diverso, nelle cordigliere, qualcosa di grigio che uccideva, fumo, polvere di miniere o cemento. Un esercito oscuro che camminava in un giorno senza bandiere, e vidi dove vivevano oppresso, circondato di legna rotta, terra marcia, latte arrugginite. E io dissi: io non lo sopporto. Dissi: fin qui sono giunto nella solitudine. Forse i doveri del poeta sono sempre stati gli stessi nella storia. L'onore della poesia è stato uscire in strada. È stato prendere parte a questa o a quella lotta. Non si spaventò il poeta quando lo chiamarono insorto. La poesia è un'insurrezione. Non si offese il poeta quando lo chiamarono sovversivo. La vita supera le strutture. Aspettiamo ogni giorno cambiamenti immensi. La primavera è insurrezionale. Nelle miniere dell'Alto fui eletto. Giunsi al Senato, mi sedetti. Giurai con i signori distinti. Giuro. Ed era vuoto il giuramento di molti. Non giuravano col sangue, ma con la cravatta. Io recavo la sabbia, la pampa grigia, la luna ampia e ostile di quelle solitudini, la notte del minatore, la sete del giorno duro, il cucchiaio di povera latta e di minestra povera. Giuravano con la voce, con le labbra, con la lingua, con i denti. Rappresentavano cifre di corruzione. Lo zucchero gli dava la parola, o la quotazione dei fagioli. Uno era il senatore del cemento, un altro aumentava il prezzo del carbone, uno riscuoteva il rame, il cuoio, la luce elettrica, il salnitro, il treno, le automobili, gli armamenti, la legna del sud pagava voti. E vidi un signore mummificato, proprietario delle imbarcazioni. Non sapeva mai quando doveva dire sì o gridare no. Era come un antico palombaro freddo che fosse rimasto per errore sotto il sale delle maree. E quell'uomo senza nome e in sala moia stabiliva per strana sorte la legge del gioco che si promulgava contro i poveri popoli, stipulando in ogni codicillo la fame e il dolore di ogni giorno, dando ragione solo alla morte e nutrendo il borsellino del negriero. Si rinnovò la speranza perché uno dei candidati alla presidenza, Gonzales Videla, giurò di fare giustizia. Con una travolgente maggioranza di voti il popolo lo elesse presidente. Ma i presidenti della nostra America criogia subiscono spesso una metamorfosi straordinaria. Il presidente della Repubblica, eletto con i nostri voti, si trasformò sotto la protezione nordamericana in un piccolo vampiro vile e sanguinario. La stessa sera che iniziò la sua grande repressione anticomunista, invitò a cena due o tre dirigenti operai. Alla fine della cena scese insieme a loro le scale del palazzo e, asciugandosi una lacrima, li abbracciò dicendo: piango perché ho dato l'ordine di mettervi in galera. All'uscita vi arresteranno. Non so se ci rivedremo ancora. Si disposero tutti ad carcere, tormento, campi di prigionieri, esodo e morte a quelli che nutrivano qualche speranza. E vidi che erano feriti quelli lontani, assassinati, i miei compagni assenti. Potei vedere, sentire, semichiusi, setosi, pesci, rosei, enormi calamari, armati di camicia e d'orologio, firmare la condanna del povero diavolo oscuro, del povero compagno della miniera. Erano tutti d'accordo nel rompere la testa dell'affamato, nell'aizzare le lance e i bastoni, nel condannare la patria a 100 anni di sabbia. Mi fu tolta l'immunità e venne spiccato un mandato di cattura. Ma noi poeti siamo fatti in gran parte di fuoco e di fumo. Cambiavo casa quasi ogni giorno. Il cantore popolare immagina di avere i piedi in un posto, il cuore in un altro, e descrive tutto il suo organismo che ha lasciato sparso per campi e città. El cuerpo repartido. Io mi sentivo così. Venne organizzata la mia fuga. In automobile per 1000 chilometri e poi a cavallo, attraverso la cordigliera, la montagna andina a passi sconosciuti, così ostili e difficili che le guardie di frontiera non si preoccupano più di sorvegliarli. Ci pensano i fiumi e i precipizi a fermare il viandante. I compagni argentini mi avrebbero atteso in un posto convenuto. Antica notte e sale disordinato battono le pareti della mia casa. L'ombra è sola. Il cielo è ormai un palpito dell'oceano. E cielo e ombra scoppiano con fragore di combattimento smisurato. o addii ad una terra e ad altra terra, a ogni bocca e a ogni tristezza, alla luna insolente, alle settimane che arrotolarono i giorni e scomparvero. Addio a questa e a quella voce tinta d'amaranto, e addio al letto e al piatto abituale, al luogo visperale degli addii, alla sedia sposata con lo stesso crepuscolo, alla strada che ha fatto negli scarpe. Parigi, rosa magnetica, antica opera di ragno, eri lì argentea, tra il tempo del fiume che cammina e il tempo inginocchiato in Notre Dame. Tutti erano venuti, e non conto i nomadi del mio stesso paese disabitato. Lì erano i letti, con le pazze sirene, per dare altri occhi neri alla notte crepitante. Dov'era il fuoco? Il fuoco se n'era andato da Parigi. Era rimasto un sorriso chiaro, come un'infinità di perle tristi, fumo e conversazione. La notte se n'andava dai caffè, entrava il giorno, a lavorare come un feroce garzone, a scopar via l'amore ed i supplizi. L'esilio è rotondo, un cerchio, un anello, i tuoi piedi lo girano, attraversi la terra, non è la tua terra. Ti sveglia la luce, non è la tua luce. La notte giunge, mancano le tue stelle. Trovi fratelli, ma non è il tuo sangue. In terra restavano ancora dei tanghi, spilli di chiesa colombiana, occhiali e denti giapponesi, pomodori uruguayani, qualche cadavere magro di cileno. Tutto doveva essere scopato via, lavato da immense lavandaie. Tutto sarebbe finito per sempre. Cenere squisita per gli affogati, che ondeggiavano in forma incomprensibile nell'oblio naturale della selva. Sei come un fantasma che si vergogna di non amare di più quelli che t'amano tanto. È ancora così strano, strano che ti manchino le spine ostili della tua patria, il roco abbandono del tuo popolo. Ma con cuore irrimediabile ricordare ogni piccolo segno, come se solo miele delizioso s'annidasse nell'albero della mia terra. La povera terra del mio paese, i crateri, le arene, il volto minerale dei deserti, tutto mi sembrò migliore della coppa di luce che mi offrirono. Mi sentii solo nel giardino, sperduto. E come? Dove sta l'antico amore? I piedi della ragazza dei miei sogni, piedi di spiga, di grano, di ciliegia, frapposti, agili, aerei, fra la mia pallida infanzia e il mondo. Dov'è l'amore morto? L'amore, l'amore, dove muore? Nei granai remoti, ai piedi dei roseti che son morti, sotto i sette piedi della cenere di quelle misere case che un incendio ha distrutto nel villaggio. Oh amore della prima luce dell'alba, del mezzogiorno fierissimo e delle sue lance, amore di solitudine adolescente, terusa, d'occhi ampi alla luna o al sole d'inverno, terusa aperta tra i papaveri, scintilla nera del primo dolore. Suonavano le campane di Cautin, tutti i petali chiedevano qualcosa, non rinunciava a nulla la terra, l'acqua ammiccava senza posa, voleva aprire l'estate, dargli infine una ferita. Regno della mia perduta piccolezza, quando vidi nascere la terra e io nascevo col tuo amore, delusa, col tuo amore che si spogliava sulla mia pelle assetata, come se le cascate della zagara, dell'ambra, della farina avessero trasgredito la mia sostanza e da quell'ora ti recassi in me. Delusa, inestinguibile, anche nell'oblio, attraverso le età ossidate. Ora che vieni in visita, antica amica, amore, bimba invisibile, ti prego di sederti di nuovo sull'erba, perché per venire hai coperto di cenere la chioma di carbone vigoroso che ho spiegato tra le mie mani nel freddo delle stelle di Temuco. I tuoi occhi dove sono? Perché ti sei messa quello sguardo stretto per vedere se sono lo stesso? Dove hai lasciato il tuo corpo d'oro? Che accade alle tue mani socchiuse e alla loro fosforescenza di gelsomino? Entra nella mia casa, guarda con me il mare. Una a una le onde hanno sciupato le nostre vite, E non solo la spuma si rompeva, ma le ciliegie, i piedi, le labbra, dell'età cristallina. Addio. Ora ti prego di tornare alla tua sedia d'ambra nella luna. Torna alla madre selva del balcone, guardami, con la sua immobilità. Finché tornerò a vederti, da quello, da allora, da colui che fui nel tuo cuore fiorito. Perché sta scritto dove non si legge che l'amore estinto non è la morte, ma un'amara forma di nascere. Esili! La distanza si fa densa. Respiriamo l'aria della ferita. Vivere è un precetto obbligatorio. Tanto è ingiusta l'anima senza radici. Rifiuta la bellezza che le offrono. Cerca il suo sventurato territorio. C'è solo lì il martirio o la calma. Ho bisogno del mare perché mi insegna. Non so se imparo musica o coscienza. Non so se è onda sola o essere profondo. O solo roca voce o abbacinante supposizione di pesci e di navigli. Chi non desidera un'anima dura, chi non si è praticato nell'anima un filo, quando appena potemmo guardare scorgemmo l'odio, e appena camminammo fummo investiti, e appena volemmo amare ci vollero male, e appena toccammo fummo feriti, chi non fece qualcosa per armare le sue mani e per sussistere, farsi duro come il coltello e restituire la ferita? Il delicato pretese ruvidezza, il più tenero cercava impugnatura, colui che solo voleva che lo amassero con un forse, con la metà di un bacio, passò altero, senza guardare quella che lo aspettava, aperta e sventurata, ma non vi fu nulla da fare. Di strada in strada si stabilirono mercati di maschere. E il mercante provava ognuno un volto di crepuscolo o di tigre, d'austero, di virtù, di antenato, finché terminò la luna piena e nella notte senza luce fummo uguali. Tornai alla mia terra e, appoggiato alle finestre dure dell'inverno, spio l'insistenza delle onde dell'oceano freddo di Isla Negra. Io ebbi un volto che persi nell'arena, una pallida parte di dolente, e mi costò cambiare la pelle dell'anima fino a giungere a essere il vero, a conquistare questo diritto triste, attendere l'inverno senza testimoni. Ho atteso quest'inverno come nessun inverno fu atteso da uomo prima di me. Tutti avevano appuntamenti con la felicità, io solo ti attendevo, ora oscura. Amor mio, nel mare navigammo di ritorno alla razza, all'eredità, al vulcano e al recinto, all'idioma addormentato che ci usciva attraverso le chiome nelle terre altrui. Il mare palpitava come una nutrice ricolma. La cesta di ferro ci ha portato palpando e tagliando l'oceano. T'ho amato senza perché, senza da dove. T'ho amato senza guardare, senza misura. E non sapevo che udivo la voce della ferrea distanza, l'eco che chiama la creta che canta tra le cordigliere. Non sapevo, Cilena, che tu fossi le mie stesse radici. Senza sapere come, tra idiomi estranei, lessi l'alfabeto che i tuoi piedi muti lasciavano, camminando sulla sabbia. E tu, senza toccarmi, accorrevi al centro del bosco invisibile, a marcare l'albero dalla cui corteccia volava l'aroma perduto. Emigrano gli uccelli dagli arcipelaghi e crescono nel mio cuore le tue radici di frumento. Tutto restò indietro, notte aurora, il giorno sospeso come un ponte tra le ombre, le città, i porti del rancore, dell'amore, come se la guerra fosse entrata nel magazzino portandosi via una a una tutte le merci. Ore di ieri, attraversate dal filo di una vita come da un ago insanguinato, tra le decisioni senza sosta abbattute, l'infinito colpo del mare e del dubbio, il palpito del cielo e dei suoi gelsomini. Chi sono? Quello? Quello che non sapeva sorridere e perché a lutto moriva? Quello che il sonaglio e il garofano della festa sostenne abbattendo la cattedra del freddo? Forse fui castigato, forse fui condannato a essere felice. Resti testimonianza qui che nessuno mi passò vicino senza compartirmi e che affondai il cucchiaio fino al gomito in un'avversità che non era mia, nell'altrui sofferenza. Non si trattò di palma o di partito, ma di poca cosa. Non poter vivere né respirare con quell'ombra, quell'ombra d'altri come torri, come alberi amari che sotterrano, come colpi di pietra nei ginocchi. È tardi, tardi, e continuo, continuo, con un esempio dietro l'altro, senza sapere quale sia la morale. Perché da tante vite che ebbi sono assente e sono nello stesso tempo l'uomo che fui. Forse è questo il fine. La verità misteriosa. La vita. La continua successione di un vuoto che infila di giorno e d'ombra questa coppa. E il fulgore è sotterrato come un antico principe nello stesso suo sudario di minerale malato. Finché così tardivi ormai siamo che non siamo. Essere e non essere risultano essere la vita.